Pace cavalcando un mulo, abbattendo ogni impero, rivedrai lo splendore di Sio, la gloria del Signore, tutti allora sapranno che Yahweh è il solo Dio.